Cosa, quella è te, e lo è di me. Shoot, but you look down, what's that? You're crazy. Fine, down.